Sangue e massa del blues valore scendono, capitale variabile rimane uguale. Sangue e massa del blues valore scendono, capitale variabile rimane uguale. Sostituiamo gli operai prolungando la giornata a limiti insuperabili. Sostituiamo gli operai prolungando la giornata a limiti insuperabili. Capitale comanda sull'operaio nel processo di produzione. Il capitale comanda sull'operaio nel processo di produzione. I mezzi adoperano l'operaio, i mezzi adoperano l'operaio. Il saggio è lo svalore diviso capitale variabile. Il saggio è plusvalore diviso capitale variabile.